se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Toglietemi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Oggi la direzione politica giusta la dà quella collina lì, secessione, leggo scritto, è Piemonte Libero, tutto il resto sono chiacchiere, capisco bene perché è bellissimo, in quel bellissimo tensione ci sia scritto Italia di merda. Perché è un po' come con la nazionale di calcio, il giorno dopo la partita sono tutti allenatori, anche qua. Ci sono un po' di segretari federali in giro, che hanno la soluzione di tutti i problemi, che hanno la bacchetta magica. Don't let me down. Noi veniamo da un periodo onestamente difficile. La Lega non era più né carne né piscina, sembrava un anfibio, non si capiva bene le cose. A volte anche i dirigenti pigliano strade che poi risultano essere perfette. Noi non saremo più schiavi di nessuno, noi accordi al ribasso non ne faremo con nessuno, non voglio tornare al 4% per portare a casa 20 parlamentari di cui non me ne faccio un cazzo, voglio cambiare questo paese. Voglio cambiarlo, ma alle nostre condizioni. Don't let me down. È Pontida, signori, a Pontida succedono cose così. Bossi che dice lo striscione Italia di merda, va bene. La Lega che sembra un anfibio, le critiche a Salvini che risponde, noi mai più schiavi, nemmeno di Berlusconi. E la Lega, signori. From the first time that she really done me. Allora al 349-238-6666 mandate i vostri messaggi, anche il nostro amico da Madrid, Luca. Ah, oggi si parte, eh? Oggi vi chiamiamo se state all'estero. Oggi voglio sapere qual è la prima notizia per voi che state all'estero, ci ascoltate da lì. Oggi partiamo attorno alle 6.50, eh? 6.50 chiamiamo, sveliamo il nostro primo ascoltatore dall'estero. Intanto siamo qui con Peter Bescapè in regia e Lorenzo Nespoli in redazione. Io ci sono, Lidia da Bergamo, ma non è estero, cara Lidia, no, scherzo ovviamente. Un abbraccio, Lidia, che ci ascolta, ma dall'Italia. A me ancora mi risulta Bergamo. No? Lidia, sì, conferma. Va bene, va bene. Questo Amedeo da Udine non lo leggo, perché è un po' troppo questo messaggio. Va bene, dai, caro Amedeo. Su Salvini. Allora, ragazzi, in America si svegliano ancora con l'incubo del terrorismo, Che è successo non si sa, non si capisce bene, soprattutto a New York non ci sono rivendicazioni, mentre a Minneapolis un somalo di origine americano chiedeva a tutti: sei musulmano? Ah, e non musulmani, una coltellata, ne ha feriti 9. E invece a New York ci si sveglia ancora con l'incubo terrorismo, l'incubo lupi solitari, come si chiamano. In Italia invece, appunto, la Lega così, referendum, si litiga, i migranti, le solite cose, non cambia niente. Berlusconi che compra 4 case, di cui una, giuro, scrive Libero, in via delle Zoccolette. Insomma, non cambia molto. Va bene, voglio subito convocare la nostra. Veronica Gentili, Buongiorno. Buongiorno biondino, come andiamo? Da sciocchina biondino. Adesso è provvisorio biondino, è solo per l'inizio della mattina, poi torno sciocchina, però per darti un'accoglienza preziosa. Sì. Dove sei finita anche tu? Cioè, tra tutte le certezze nella vita è che Veronica Gentili quando parla si sente sempre alla perfezione. In quale casa, di quale tuo amante ti ritrovi? Io creo uno spazio. Ho capito, uno spazio a sé stante, creo un buco proprio sonoro in cui mi metto lì per parlare con voi. Ah, va bene, va bene. La, la nostra Veronica Gentili, che comunque ha eluso la domanda. La domanda. La adesso domanda. Veramente tu pretendi che possa risponderti in diretta a te? Sono, sì, no, dove vai. Sei? No, infatti. Non almeno la città, possiamo dichiararla la città? Quella è sempre quella che versa in guai enorme. Roma. Quella che dal primo giorno in cui ci sentiamo è sempre nei guai. È sempre Roma. Quella, Roma. Insieme al nostro quasi omonimo, il nostro Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Come va? Buongiorno. Ma la Gentili sa rispondere alla domanda a cui l'ha spesi ieri. Su Repubblica non sapeva rispondere. Aspesi forse. Sì, certo, io sono preparata su tutti i fronti. Aspetta, mio caro. Aspetta, com'era qual la patatina? Sul vestito delle due signorine? Ah, brava, è preparata. Io sono sospettissimo, mio caro. Sono pronta, ti copro tutti gli argomenti, mi sono perso però questo... dovrebbe fare anche lei, la Gentili, una sfilata così. Però quel vestito lo trovo di scarsissimo gusto e molto poco chic. Avvocato, adesso stiamo esagerando, avvocato. Purtroppo mi piace, ma se uno si deve vestire bella e sensuale, mantiene lo stile e il garbo, non sceglie un vestito. Dai, avvocato, ma state parlando delle sfilate della Salemi, quella che si chiama così? Noi eravamo a Venezia con il nostro stand, con Ippoliti, a vedere le critiche sui siti. E in quel momento lo stand è crollato. Nessuno. Perché tutti erano attratti da. Possiamo dire che intanto se uno deve mettersi quel vestito è bene prendere una abbronzatura integrale, quindi frequentare una bella spiaggia di nudisti per tutta l'estate. No, non troviamo scuse. Prima critica di Veronica Gentili. Vabbè, vi rendete conto, stiamo parlando di Giulia Salemi, Giulia si chiama, non lo so, seguo le sollecitazioni del nostro sindaco mancato. Esatto, è Carlo Rienzi. Avvocato, come sta? Apriamo il Parlamento, che così... Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, gente, a correre. Va bene, dai, facciamo bere un caffè tranquillo a Matteo Renzi, che così poi ci raggiunge. Allora, no, mi dicono oggi non fai battute sugli interisti. Non faccio battute sugli interisti, ragazzi, ma tra Inter e Juve, ma tutta la vita Inter, quindi lo ribadisco a maggior ragione oggi. Meno male che c'è l'Inter che ha battuto la Juve. Come devo partecipare a questa cosa? Niente, ascolta, è soddisfatta. Che è successo? L'Inter ha vinto con la Juve? Sì, ma quanto? Non lo sapevo manco io. Manco sapevo che l'Inter aveva vinto con la Juve. Abbi pazienza. Oggi ragazzi, non faccio nemmeno finta. Ragazzi, vabbè. Allora, vabbè, 2-1 per la precisione. Allora, avvocato Rienzi, non lo so, qua i giornali ovviamente aprono su quello che c'è a New York. A me ha molto colpito Trump. Ma vi impaurisce Trump, davvero? Trump ha detto ora bisogna essere duri, fermi. Non si capisce ancora chi abbia messo queste bombe a New York, questa bomba a New York, ma lui ha già la ricetta pronta, non si capisce neanche contro chi. Non lo so, ci deve impaurire Trump, tu Veronica A me non piace. A te non piace, non piace. Perché non piace? Non piace? Gli americani tanto se la sanno sbrigare, non credo che lo nomineranno. No, vincerà la Clinton. Te Veronica... Speriamo bene. Sì. Diciamo che le ultime uscite della Clinton, la faccenda della salute che un po' l'ha indebolita, mi hanno un attimo intimorito. Poi ho sempre fiducia, ma non è che io proprio abbia questa fiducia viscerale negli americani, eh. Io non sono una di quelle che idolatra il popolo americano. Ma no, non è che c'è da idolatrare. Tu pure. Perché... Beh, noi abbiamo sempre questa esterofilia enorme, questo complesso. Cos'è che sono? Non sono fessi. Ah, non sono, avevo capito, sì, sono fessi. Su questo potremmo dibatterne, però non vorrei lanciarmi adesso in questa disamina antropologica sugli americani e farmi odiare da tutti quanti gli americani. Allora, infatti, salutiamo, raggi, allora. Salutiamo l'ambasciatore americano in Italia. Per esempio, parliamo se della... il presidente degli Stati Uniti d'America lo facesse la Raggi, vogliamo valutare per esempio questa. Ho capito, ma dai, ma tutti i giorni non è che possiamo parlare della Raggi, però no, parliamo della Raggi. Allora, Renzi... sta facendo come Marino la Raggi. Ecco, non risponde. Abbiamo chiesto a lei una sala al Campidoglio per la conferenza stampa sulle Olimpiadi di mercoledì. Manco non ci ha nemmeno risposto, proprio come faceva Marino, ma è una tristezza proprio. Però secondo me diciamo che c'ha avuto un po' di altre cose a cui pensare. No, esatto, risponde. Le Olimpiadi mi sembra la cosa principale a cui deve pensare in questo ma momento. Ma ci dovrà no? pensare, però intanto se avesse una giunta composta sarebbe un pochino più tranquilla e potrebbe. Adesso pare che questo assessore al bilancio si sia trovato, aspettiamo che domani ci dicano chi è. Ma così. Chi è? Purtroppo non lo so, altrimenti ve lo direi in anteprima, ma non si sa, proprio non lo sa nessuno ancora, però si sa che c'è e che domani verrà annunciato. Ma Rienzi, non ho capito, avete chiesto che cosa la Raggi, una sala del Campidoglio per fare una piccola sala, una conferenza stampa, anche se no faremo allo stadio di Domiziano a Piazza Navona, perché dobbiamo presentare i risultati dei tre sondaggi che ha fatto il centro studi su questo problema delle Olimpiadi, che eravamo molto contrari alle Olimpiadi. Ce ne dica qui. E che, però adesso abbiamo verificato che l'85% dei romani è d'accordo sulle Olimpiadi, anche se il 90% non è d'accordo sulle istituzioni che le possono controllare e gestire. Ma che sondaggio non è il 90%? Niente, italiani, romani, ma come il 90%? Ma che sondaggio avete fatto? 90% a favore? Tre sondaggi, no, 85. Sì, 85? Sono tre sondaggi che non si secondo il sondaggio del Codacons. Ve lo spieghiamo. 85% dei cittadini di Roma vogliono le Olimpiadi. C'è una sorta di plebiscito. T'hanno chiamato, Veronica? Sconcertati. Nel sondaggio, t'hanno chiamato nel sondaggio. Io non sono stata interpellata. No, ma tu fai parte del Codacons? No. Ma lei poi non sta manco a Roma. Ma come non sta a Roma? Ma come non sto a Roma? Certo non scherziamo col fuoco. Ma sta a Roma! Più un romano di me non c'è nessuno. Ma il telefono fisso sull'elenco del telefono? No, questo purtroppo non ce l'ho. Rienzi! Ma comunque, no, poi diamo allora, anche il numero. Rienzi, se questa... Rienzi, se è una... se è una scusa per avere il cellulare della centinaia. Mi poteva mandare un messaggio a Rienzi dicendo: senta, mi sono dimenticato di dire una cosa questa mattina in trasmissione a Veronica Gentili. Mi mandi mica il cellulare e io queste cose così traverse. Ti faccio vedere la mia collezione di quesiti sulle Olimpiadi. Brava Veronica. No, ma dai, ma è pazzesca questa cosa. Ma come l'85% dei cittadini di Roma sono per le Olimpiadi? Balla a chiedere a loro. Evidentemente pensano che migliora qualche cosa. Noi abbiamo fatto un bel progetto, adesso abbiamo proposto alla Raggi a Malagò. Ma proprio questa settimana, oggi il Messaggero dice che la Raggi dirà di no questa settimana. La Raggi dovrà dire di no per forza, l'unica cosa a cui dovrà tener fede perché Grillo possa mantenersi. Io scommetto che non dirà di no. Quanto vogliamo scommettere? Io scommetto che se non dice di no è la volta che è definitiva la scissione tra Raggi e Movimento 5 Stelle. E che potrebbe essere anche una strada. Grillo, no, potrebbe essere auspicabile. Auspicabile, hai detto te, auspicabile. Io ho detto che potrebbe essere una strada. Se tu prendi posizione. No, nel senso perché hai detto, tu hai detto auspicabile, io ho detto potrebbe essere una soluzione verso cui si va. Potrebbe accadere, diciamo che potrebbe lo scenario accadere. Che a un certo punto facciamo una scommessa, la Gentili se vinco io si mette il vestito dalla Salerno. Basta Carlo, però, Nienzi, allora, io però ti invito, guardi, io posso accettare la sfida, però tu telefoni allo stilista e gli fai dare una bella sistemata a questo vestito prima, Carlo, lo facciamo molto molto più grazioso e stiloso e poi vediamo se lo posso mettere, vediamo. Però così arancione con lo scoscio, capito, è un po' troppo, è un po' troppo. Andiamo, non è che lo teniamo il vestito, semplicemente volgare. Era volgare, brava, mi hai tolto le parole di bocca, era volgare. Dai, andiamo un attimo al traffico che poi rientriamo, sentiamo Renzi sui migranti, litiga con la Germania, Renzi fa la voce dura e batte il pugno sul tavolo. Manda il traffico, traffico, traffico, traffico. Milan, chi si somiglia si piglia. Renzi si è pigliato Verdini. Milan, spiegami perché inviti sempre i giornalisti che parlano sempre male di Renzi. Barbagallo e Angeletti sono andati in crociera a spese della Will sulla costa fascinosa, costa incredibile, costa favolosa. A me sembra che costa troppo agli iscritti al sindacato. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Quando facciamo queste osservazioni su Luigino Di Maio, no? È stato capace in 24 ore di vincere contemporaneamente la sua guerra lampo contro la storia, la geografia e la grammatica. In una botta sola. Secondo me, Veronica, dicevamo qui con Lorenzo Nespoli, qualcuno gliele scrive. Cioè, c'è, forse è Crozza stesso che gliele scrive a De Luca. Perché... io no, ormai non posso fare a meno di pensarmi, perché questi giorni le riprese di De Luca tra le tre mezze pippe queste cose qui sono andate imperversate dovunque. No, anche ieri, che era una trasmissione, l'hanno fatta a un autore. Secondo me ha un autore. Poi ma si... no, dai. È un vero napoletano. No, no, ha un autore, perché le pensa. Secondo me la virata, il cambio di mestiere e mettersi a fare finalmente il capocomico è a breve, dai. Sì, sì, dici. Non può più, anche perché ormai la credibilità politica. Non dice sempre se fesserie. Mica dice fesserie De Luca, attenzione. Per esempio, cos'è che dice di... No, no, dico, no, è una domanda seria, Veronica. Che cosa dice di... La Raggi bambolina, quegli altri... Cioè, non è che sia quelle sono le cose. Sono valutazioni che anche i cittadini normali a volte fanno. Mm. Va bene, sentiamo Renzi. Renzi è arrabbiato, invece, batte i pugni con l'Europa, dice sui migranti, non fanno nulla. Tra l'altro, oggi racconta i giornali, vuole centralizzare tutto a Palazzo Chigi, la gestione dei migranti che vengono distribuiti per l'Italia. Sentite qui. L'immigrazione. Vogliamo capire che se è giusto salvare tutti in mare, non è possibile accogliere tutti soltanto in Sicilia o in Puglia. Noi siamo italiani, siamo generosi, siamo pronti a dare una mano, ma non è che lasciamo che un problema come quello dell'immigrazione esploda per le incapacità europee o per le timidezze europee. Le incapacità europee. Ti piace almeno questo Renzi di battaglia, Veronica, oppure no? Sì, no, no, guarda, io su questa cosa sono d'accordo, anche sull'alzata di testa. Il problema è che, insomma, arriva un po' così come i cavoli a merenda. Cioè, abbiamo fatto tutti i summit, la barca, la porta aerea a Ventotene, tutte queste trovate molto di sintonia con la Merkel e Hollande, e poi improvvisamente uno ha il grande risveglio che in realtà ci stanno prendendo in giro. Sì. Un po' bizzarro, credo che qualche sospetto, lui che va, cioè, ai vertici, io non ci vado, ma lui, cioè, ci va. Cioè, l'ha fatto un po' per recuperare qualche... Ma è sicuro, diciamo, che non è andato lui o non l'hanno chiamato loro? Là. Le tempistiche... Questo non lo so, però diciamo che secondo me non è l'aspetto più grave, perché comunque il fatto che l'Italia è fregata da quello che esce da questo summit è evidente, quindi che anche l'avessero chiamato lui non poteva dire che bello figata, è chiaro, perché su tutte le cose che premono a noi non c'è niente. Però, tempi sono un po' sospetti. Sono sospetti, però signori, allora attenzione, sono le 6:51 minuti, io voglio iniziare qui da oggi, ogni tanto chiameremo alcuni dei nostri ascoltatori che stanno all'estero, il nostro patrimonio, quelli che ci ascoltano da ogni parte del mondo, tanto in streaming sul sito radio24.it si può fare, allora eccolo lì, dai. Good morning Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock and roll! Ma sì, dai, ci siamo fatti anche questa sigla, capisci Veronica? L'hai visto questo film? Perché noi da Good Morning Vietnam vogliamo svegliare un po' i nostri ascoltatori. Guardate che iniziamo un viaggio incredibile, Oggi mi sa che iniziamo da un paese, pensa un po' Veronica, pensa, Carlo Rienzi, ci ascoltano anche dallo Zambia o dalla Zambia. Questo è Nicolò, buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Dove ti trovi? Buongiorno agli ospiti e a tutti i radioascoltatori. Dove ti trovi tu? Mi trovo a Lusaka, nello Zambia. Nello Zambia, già subito, nello o nella Zambia. Anche nella Zambia. Nella Zambia. Ma senti un po', visto che qua le notizie sono quelle che hai sentito, referendum, immigrati, eccetera, in Zambia invece, di che parlano? Ma l'attenzione mediatica qua è polarizzata sulle elezioni presidenziali che si sono svolte il mese scorso, il nuovo presidente, che in realtà era quello precedente, è stato riconfermato tra molte polemiche, e si fa un continuo parlare adesso del nuovo governo, delle nuove nomine, del palletto delle poltrone. Una noia mortale, cioè tu sei andato in Zambia, esatto. Veronica è andato fino in Zambia per parlare della politica zambese, zambizzana. Tutto il mondo è paese, capito? Tu senti che andando in Zambia cambi l'agenda, invece l'agenda è quella. L'agenda è quella, quindi politica, caro Nicolò. Politica. Sì, politica, qua parlano molto di politica, poi in realtà c'è anche un po' di cronaca che purtroppo non è divertente. Due giorni fa c'è stato un incidente di un pullman, sono decedute 25 persone. Per cui, mannaggia. Ci dispiace. Ma tu che fai nella Zambia? Io mi occupo di trasporti e logistica, ho qua un'attività e la sto seguendo da circa un anno. Ah, fantastico, cioè trasporti e logistica in Zambia, cioè? Diciamo abbiamo dei veicoli, facciamo movimentazioni di materie prime, questo paese è un paese che estrae principalmente rame, ma non ha accesso al mare, questo rame viene esportato verso la Cina, verso l'Europa, e quindi dalle miniere che si trovano nel nord del paese vanno convogliate verso i vari porti. In Sudafrica, in Tanzania. E questo avviene su gomma principalmente. Ma è fantastico, va bene, Nicolò. Grazie da Lusaka, Zambia. Avete sentito, cari ascoltatori, qua Veronica, scriveteci a 24 mattino e radio24.it, perché vi porteremo in questo tour mondiale. Ti sei fatto una cultura? So un po' dello Zambia, insomma, adesso. Adesso il povero Nicolò non sa che da un momento all'altro tu gli cali in Zambia, lo vai a trovare. No, dici, Nicolò, io sono qui adesso. No. Ti ho portato me e un pacchetto di persone. Adesso mando Carlo Renzi. Mando Carlo Renzi a fondare il comitato dei consumatori. Sei stato in Zambia? C'era un draghetto, volevo chiedere. Terribile, dove andavano? Il quadruplo delle persone con le lattine di benzina, con gli squali tutti intorno attraverso il fiume. Speriamo gli squali nel fiume. Renzi, gli squali nel fiume. Ma com'è possibile? Gli squali. Quante nel esperienze. Fiume. Dovremmo andare in giro con Renzi per scoprire dei mondi a noi negati. Certo, i celebri squali da fiume di Carlo Renzi. Beh, è straordinario. Grazie a tutti. Un abbraccio anche a Nicolò. Scriveteci, vi veniamo a scovare. Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qua, adesso aveva ragione Carlo Renzi. Mi scrivono in molti che gli squali leuca nello zambesi esistono, gli squali fiume. Allora Carlo Renzi l'abbiamo salvato da degli squali fiume. Chi ci ha ascoltato prima alle 6.50 ha capito, chi non ha capito non ha capito. Intanto la 177esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata. È ufficialmente cominciata, cari ascoltatori. Siamo qui nella rassegna stampa di 24 mattino a raccontare quel che i giornali ci svelano, e allora andiamo a scoprirlo insieme. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo lunedì 19 settembre, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre sulla concorrenza all'ultimo miglio, questo è il titolo di prima pagina. Dopo un anno e mezzo di navigazione parlamentare si avvicina ai passaggi conclusivi il disegno di legge sulle liberalizzazioni, questa è l'apertura del lunedì del Sole 24 Ore, mentre ovviamente le prime pagine dei giornali sono tutte concentrate a quello che è successo a New York, dove questa esplosione senza rivendicazione al momento getta nel terrore gli Stati Uniti. Corriere della Sera, l'ombra del terrore sul voto USA, questo è il titolo di prima pagina.